Terzo appuntamento in scena per il Breakfast Club e con noi puntualissimo 8 e 30 minuti e 30 secondi che scoccano in questo momento. Oramai posso dire che il Breakfast Club può aprire una rubrica dedicata a San Giovanni in Persiceto. Lo dico anche con grande gioia e fascino per conoscere la storicità, la tradizione di un territorio di confine, e come ben sapete a me tutti i territori di confine scatenano questa curiosità per saperne di più nella loro realtà di percorso. E con noi quale miglior Virgilio che Andrea Santonastaso. Grazie, buongiorno Andrea. Buongiorno William, buongiorno a tutti, buongiorno. Ormai parlo di San Giovanni in ogni volta che faccio la rubrica in scena, cioè, San Giovanni, ma è bella questa cosa. Poi, certo, anche perché in questo periodo è il centro del mondo, San Giovanni, non scherziamo. Ne vale antichissimo, a proposito di tradizioni che affondano le radici. Poi ascoltatrici e ascoltatori, con i quiz che di solito promuovo, sono molto preparati sull'etimo del nome, che persiceto vuol dire frutteto di pesche, e anche tanti altri aspetti sullo spillo carnevalesco, e ne abbiamo tutte cose che il guitto qui pronto a rispondere alle tue domande non sa, ma imparerà. Ascolta il Breakfast Club al venerdì e tu avrai modo di ascolta Andrea, sabato 10 febbraio alle ore 17:30 al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto, la prima edizione del Premio Internazionale della Satira e dell'Umorismo. Leggo dei nomi importanti, leggo che di famiglia ci sarà anche Pippo Santonastaso. Abbiamo Andrea Santonastaso nella figura di conduttore. Conduttore, quindi, sì, sono il conduttore ufficiale del premio, della prima edizione del Premio Bertoldo, che essendo un premio alla satira e all'umorismo, aveva bisogno di un conduttore che è il primo che si prende in giro in veste di conduttore, quindi penso di essere proprio adatto, capito? Faccio io già satira, certo, su di me. Io sono certo che con quello che stanno vivendo, perché io non lo voglio vivere per quanto riguarda quella rassegna di cui non riesco neanche a pronunciare il nome, tu farai un figurone, guarda Andrea. sarà un successo. Sì, ma ripeto, anche perché credo che la chiave che spiega bene agli altri che cos'è, cosa vuol dire fare satira, che cosa vuol dire fare umorismo, parta dall'ironia e prima ancora dall'autoironia. Quindi mi guarderò allo specchio prima di entrare in camerino, prima di entrare in scena, e penserò: ma guarda un ma po'. Ma guarda cosa devo, ma pensa te, chi hanno scelto? No, più che altro perché, sai, visti i premi che daremo, perché daremo un premio a Chiara Rapaccini, sì, moglie del maestro Monicelli, daremo un premio a Francesca Germandi, illustratrice di fama mondiale, daremo il premio alla carriera a un signore che mi è parente, che si chiama Pippo Santonastaso, molto vicino, e che fa televisione, l'ha fatta ad altissimo livello dal 1970. Già questi tre premi, insieme alle illustrazioni, al premio all'illustrazione dedicata a Bertoldo, e anche solo parlare di una figura come quella di Bertoldo, penso sia una cosa, un onore, una cosa bellissima. E appunto leggo che hai vicino anche chi condivide la tua passione grafica e per il disegno, che è Valentina Stecchi. E sì, quindi Valentina Stecchi, la quale riceverà anche lei un premio. Ci tengo a dire che l'artefice, oltre al comune di San Giovanni Persiceto e chi si occupa del carnevale, l'artefice di tutto questo è un signore che si chiama Giorgio Franzaroli, che è veramente quello che meriterebbe il premio per questo premio che ha inventato e che vedrà la luce domani. Lui perché la diffusione culturale è veramente molto importante, è lui, sì, che mi contatta regolarmente, ha una disponibilità, una precisione, è veramente bravo. Sai cos'ha Giorgio? Oltre a essere così, è apprensivo, cura tutti i dettagli, tutte le cose, e poi soprattutto lui ha in casa due disegni originali di Andrea Pazienza, sì, che per me significa, nel caso, cioè, proprio sono stato a trovarlo per preparare questo premio. Sembravo i turisti che vanno in visita ai monumenti, perché fotografavo tutti i quadri, le cose che appese, tra i quali questi due Pazienza, che per me sono, insomma, qualcosa di, credo per tutti, ma per me in particolar modo sono qualcosa di meraviglioso. E poi la figura di Bertoldo, insomma il carnevale, sì, la tradizione, sì, per quanto riguarda San Giovanni in Persiceto. Ho scoperto, sì, siccome ho studiato, bravo, ho scoperto che Bertoldo, non mi ricordo, cioè non sapevo esattamente l'anno di nascita del personaggio, Giulio Cesare Croce l'ho scritto, l'ha inventato, è il 1606, cioè pensa da quanto anch'io, ci portiamo. Anch'io quando ho letto la data di nascita di Bertoldo, ma è impressionante. Ho detto, ma ciao, cioè quanti anni ha questo signore brutto, perché brutto però è furbo, sì. La salunga, ecco, voglio sappiate dire. Che da domani, quando a qualche amico, parente, figliolo darete del Bertoldo, se non l'avete mai fatto potete cominciarlo a farlo, perché gli darete della persona scaltra, furba e molto intelligente, perché poi Bertoldo, sì, aveva queste caratteristiche, insomma, era capace di risolvere problemi enormi con la sua intelligenza, l'arguzia. E la moglie Marcolfa, esatto, sì, hanno intitolato anche un centro di grande vendita a San Giovanni in Persiceto, la Marcolfa, non è un caso, insomma. No, non è assolutamente un caso, così come non è un caso che il premio a Chiara Rapacini sarà, in qualche modo vedrà anche una dedica a Mario Monicelli, che fece il film Bertoldo, Bertoldino, Cacasenno, ricordando appunto tutte e tre le figure, sì. Tra l'altro ci saranno alcune chicche, so che faremo vedere un video nel quale si vedrà un carro che fu dedicato nell'anno della morte di Mario Monicelli a Monicelli, faremo vedere un carro che il Carnevale dedicò al maestro Monicelli, quindi insomma vedremo delle cose, ne vedremo delle belle. Possiamo mettere un po' di musica per 3 minuti così e poi ritorniamo in diretta anche per parlare di collaborazioni, insomma, e dare corredo a questa nostra piacevole conversazione. Puoi restare. Grazie, grazie Andrea, tra poco. Voce dei Brand New Heavies nel primo disco da solista, lei è Andrea Davenport, Bring It On. Per una puntata tutti i tempi, allora siamo partiti col calendario cosmico interpretato da Violante Placido, siamo passati a Donny Sander con Anna Amadori per il laboratorio dedicato ai promessi sposi Alessandro Manzoni e concludiamo con Bertoldo con Andrea Santonastaso. Direi che è un terzetto, come definisco io, tutti i tempi. Sei in questo Dream Team, Andrea, hai capito? Mamma mia, infatti l'importa, quando l'hai detto ho avuto un momento in cui ho pensato metto giù. No, sono indegno, capito, di partecipare. No, anzi, ci mancherebbe, tu sei il centrattacco più prezioso, se vogliamo, in questa formazione, per la tua passione calcistica, anche da grande realizzatore, come ho saputo da Nicola Bonazzi. Ma non divaghiamo, anche perché questa diretta telefonica ci porta a San Giovanni in Persiceto per la giornata di domani alle ore 17:30 al Teatro Comunale della stessa San Giovanni in Persiceto, e la prima edizione del Premio Internazionale della Satira e dell'Umorismo. Il titolo va da sé, è Bertoldo. Allora, concludiamo questa piacevole conversazione. Intanto ti ringrazio e aggiungo collaborazioni per tutto questo, come è stata organizzata, come è nata, visto che è una prima edizione, insomma, parlo anche di progetti futuri, ecco. Sì, sì, cioè nel senso che la collaborazione con San Giovanni Pescicetto è totale. Giorgio Franzoroli credo abbia fatto un lavoro che fanno quelli che quelli bravi, è stato capace di organizzare, di tessere la tela che ha portato a questo premio importante. Volevo citare anche Saul Saguatti, che sarà l'artefice della regia video e delle grafiche che vedremo domani pomeriggio. Lo volevo citare perché lui è un esempio di professionalità rara, cioè mi sono trovato a lavorare con lui, e così come nel caso di Giorgio, ma insomma credo che se questo team fosse in un luogo che dà sul mare, che in questi giorni è protagonista, lo farebbe degnamente, in maniera precisa. Non ho dubbi. Come lo fanno quegli altri, sono proprio veramente insomma folgorato. Aggiungi, per chiudere così ti saluto bene, no, comunque no, volevo aggiungere che insomma l'onore vero per il sottoscritto comunque domani sarà dare un premio alla carriera a mio padre, perché se lo merita, perché farà 88 anni, e perché insomma fa parte della storia. Auguri, dello spettacolo sinceri, in questo paese. Più cari, sì, e infatti volevo concludere proprio in questo modo, con le emozioni nel trovarsi vicino a Papa Pippo. Oh, guarda, perché anche dirtelo al telefono adesso mi si rompe la voce, perché mio padre, permettimi di chiamarlo papà, proprio come andrebbe chiamato da un figlio, è un grande, un maestro. In questi giorni ho fatto sui social, come si fa ormai negli ultimi anni, messo un post nel quale raccontavo di questa serata che devo fare con lui. Tutte le volte che salgo sul palco con lui è come andare a scuola di comicità e di satira, nella fattispecie di umorismo, come andare a scuola, perché lui ogni volta con qualche cosa, probabilmente senza saperlo, e questo fa di lui un grande, un artista totale, mi insegna, ci insegna qualcosa con la sua umiltà, modestia e capacità poi di farci ridere alle lacrime. Io veramente mi ritrovo ancora. Mi stai facendo venire voglia, guarda. No, ma adesso metto giù io, perché se continui mi no. Presento veramente, guarda. Lui merita questa cosa, e quindi sono contento che daremo a lui questo premio. Ne riceverà un po' quest'anno, perché un sacco di persone, sapendo che insomma gli anni diventeranno 88, li farà a maggio, però molti mi stanno chiamando perché vogliono comunque onorare questa carriera fantastica, che non è finita, perché poi... Ah no, certo. No, ma ti dico solo che papà domani, dopo il premio, va da un'altra parte a fare un altro spettacolo. Cioè, bene. Nel senso, in serata. Per... è una seconda bellissima giovinezza per Pippo. Come l'orchestra di Fantozzi, sai, lui... Sì, sì. mettete avanti l'orologio, come il maestro Canero. Tra l'altro lui ha lavorato in Papa e Ciccia con Paolo Villaggio, interpretava questa parte, ha sostituito l'ipotetico Filini, e esatto, l'ha fatto con una maestria che certamente non dà a rimpiangere il grande Gigi Reder, anzi altrettanto grande Pippo Sant'Anastasio. Anch'io ho una grandissima ammirazione per lui, per cui grazie, un caloroso abbraccio. Grazie a te Andrea, a domani. Grazie, grazie, alle 17:30 sabato 10 febbraio, premio internazionale della satira e dell'umorismo Bertoldo. Buona giornata, ciao William, un abbraccio, ciao, ciao, ciao, ciao. That's it, that's it, that's it. Dizzle for to get this and get that other dancing, that's a dancing, baby. Hey, mom, what your mama gonna say? She finally let you party like this guy. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden again? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden again? Does anyone wanna go dance? Tutti i tempi, gli ospiti protagonisti in scena, la puntata veramente che merita questo appellativo, ma soprattutto tutti i tempi voi ascoltatrici e ascoltatori dei 103.1, che mando un grande abbraccio e vi ringrazio per l'attenzione, per aver fatto colazione con il Breakfast Club. Vi dedico al Gerò come sigla di conclusione, eh? Se non è un tutti i tempi anche lui. C'è 30 Jazz Live con Alfredo Pasquali, il sottoscritto e il programma del Torrione imminente già da questa sera fino a domenica. Le voci dei protagonisti e la colonna sonora in jazz del vostro weekend è a Ferrara Jazz Club, il Torrione. La prima colazione in diretta si ferma per un paio di giorni, già sto preparando i contenuti per la prossima settimana, che sarà intensa, e quindi vi aspetto già da lunedì alle ore 7 per la prima colazione in diretta di Radio Città Fujiko. Allora, tra poco, Edipeo Enciclopedico, la pubblicità, Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Mi congedo a voi, come vi ho detto, con un buon ascolto, un buon venerdì, un buonissimo weekend. Sempre servo vostro William Piana, ciao a tutte, ciao a tutti, alle 11.30 per le appassionate e gli appassionati di jazz e non solo, o per le mattiniere e i mattinieri a lunedì con il Breakfast Club. Ciao.